I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. C'è un dato dell'Istat che segna un buon punto per la nostra economia. Nel 2015 le esportazioni delle imprese italiane hanno sfondato il muro dei 400 miliardi di euro, 414 per la precisione. Esportazioni che sono state trainate dagli Stati Uniti e da un cambio euro-dollaro molto più favorevole e che hanno realizzato una crescita del 3,7% rispetto al 2014. Si tratta, come detto, di un dato molto buono, solo parzialmente oscurato dalla frenata che le esportazioni hanno registrato nel mese di dicembre. Come sempre, quindi, i dati macroeconomici vanno presi con un po' di cautela. Senza la crescita degli Stati Uniti nel 2015, l'export verso i paesi extraeuropei sarebbe rimasto al palo, con la frenata delle vendite che si è registrata verso la Russia, principalmente a causa delle sanzioni per l'Ucraina, le difficoltà sul Brasile che è in recessione e più in generale una debolezza crescente di tutti i mercati emergenti, compresa la Cina. Tuttavia è indubbio che 414 miliardi di esportazioni siano un risultato importante e siano anche la conferma di come la vitalità delle imprese italiane più votate all'export, la qualità dei nostri prodotti abbiano consentito una tenuta migliore durante questa lunghissima crisi. Facciamo bene in molti ambiti, a partire dall'industria automobilistica, ma anche in settori tipici del Made in Italy, quello dei macchinari oppure gli alimentari, i mobili, il tessile e abbigliamento, anche se forse meno brillante del previsto. Insomma, tante conferme positive per il nostro Made in Italy. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. In questi giorni il tema delle pensioni è tornato improvvisamente di attualità, ce ne siamo occupati durante i 100 secondi con le polemiche sui presunti tagli agli assegni di reversibilità. Come sappiamo il governo ha poi decisamente smentito questa ipotesi. In ogni caso la sensazione è che di modifiche alla previdenza si parlerà ancora molto nei prossimi mesi. È probabile che il governo si trovi a dover affrontare il capitolo della cosiddetta flessibilità in uscita, cioè la possibilità di andare in pensione prima di aver raggiunto i requisiti, che sappiamo sono diventati molto severi e rigidi con la riforma Fornero, rinunciando a un po' di assegno pensionistico. È una possibilità della quale si è discusso molto nei mesi scorsi, poi non si è fatto nulla e che ora è stata rilanciata dal presidente dell'INPS Tito Boeri. Qual è la logica? Beh, la stretta sull'età di pensionamento sta avendo come effetto sia l'invecchiamento della popolazione attiva, ma soprattutto sta causando anche le difficoltà per i giovani a trovare un lavoro. La proposta quindi che Boeri rilancia è di introdurre criteri di flessibilità, e questo è importante, che non metterebbero a rischio la sostenibilità dei bilanci pubblici, perché se è vero che si pagherebbero pensioni per più anni è anche vero che gli importi delle pensioni sarebbero più bassi, lasciando così immutato il conto finale. Unico problema, non da poco, sarà quello di convincere l'Europa a rivedere le regole del patto di stabilità. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e RDS.it.